Rieccoci, questa volta dovrebbe andare tutto bene. Dunque, ci sono state nel corso degli ultimi giorni, ieri o ce ne sono ancora oggi, una serie di iniziative in giro per Roma per parlare di TAV, per costruire insieme l'appuntamento dell'11 di aprile, appuntamento importante per la Valsusa, ma importante per tutti i territori nei quali si sta cercando di costruire comunque un discorso analogo, e cioè la lotta auto-organizzata contro le grandi opere e le nocività. Questo è un discorso che a Roma, diciamo, può essere fatto su basi materiali abbastanza solide, se vogliamo, visto che comunque le lotte in giro, insomma, per i territori romani e della provincia, insomma, non mancano per poter appunto sviluppare realmente, insomma, questo tipo di discorso. Quindi immagino, insomma, che anche l'assemblea che si è tenuta ieri all'università abbia tenuto con un occhio di riguardo le vertenze che ci sono, soprattutto quelle relative alle discariche e al ciclo dei rifiuti qui a Roma, che stanno entrando peraltro in una fase clou. Quindi di questo credo che andremo anche a parlare. Abbiamo una compagna che è con noi al telefono, a cui chiediamo anzitutto, insomma, di così dirci com'è andata questa assemblea e su quali fronti ci si è pronunciati. Allora, buongiorno a tutti e a tutte. L'iniziativa di ieri è andata bene, a parte qualche iniziale difficoltà tecnica. È andata molto bene perché si è svolta al Prato della Sapienza, quindi bene o male siamo stati sentiti un po' anche da chi non era interessato direttamente all'iniziativa. Siamo riusciti a fare un po' di, insomma, spammaggio di informazioni. Con il professor Cancelli, che è un ingegnere, un tecnico che ha prestato il suo sapere più volte alla comunità montana, con i due compagni che sono scesi dalla Valsusa, i due studenti che stanno facendo il tour nelle scuole, che anche oggi sono al Mamiani, e come accennavi tu prima, anche con alcuni compagni del coordinamento contro l'inceneritore di Albano, perché comunque la lotta alle nocività, insomma, si staglia per tutto il territorio italiano, e perché insomma la Valsusa insegna anche rispetto a come opporsi a questi orrori ambientali che vogliono propinarci. Ci insegna che l'unica forma di resistenza è quella dal basso, è quella popolare e auto-organizzata. E diciamo che l'iter poi che ha seguito la lotta contro l'inceneritore di Albano è stato molto analogo un po' a quello che è successo in valle, parlo per esempio di tutto ciò che è stato l'iter giudiziario, quindi il ricorso al TAR vinto, poi smentito però dal Consiglio di Stato, queste chiare sentenze politiche che, nonostante l'evidenza dell'inutilità dell'opera, insomma della inadeguatezza dell'opera, viene portata avanti chiaramente perché gli interessi sono altri. E quindi, insomma, abbiamo lanciato con tutti questi compagni non solo l'appuntamento dell'11 aprile, quindi il presidio pubblico delle 5 a Piazzale Tiburtino, ma anche poi il corteo del 14 ad Albano, che si svolgerà ad Albano Laziale, che è un corteo appunto che vuole tenere insieme la lotta contro le nocività laziali alla solidarietà nottata. Questo è anche un po' un modo, no, per mettere in campo della solidarietà attiva, cioè pratiche, diffondere l'opposizione a queste opere inutili è anche una forma di solidarietà, secondo noi, di ampliamento delle prospettive in questo senso. Benissimo, bene. Solitamente, insomma, le iniziative che parlano e che cercano di offrire anche un'informazione più genuina rispetto alla questione appunto della costruzione delle grandi opere, vanno anche abbastanza bene, perché c'è una recettività da questo punto di vista che speriamo possa svilupparsi ancora di più, ma insomma mi sembra facile notare che, perlomeno insomma così è accaduto in altre occasioni, il dibattito si accende, voi, insomma, per merito soprattutto di come su, insomma, questa lotta è stata fino ad oggi organizzata e per ciò che ha rappresentato e rappresenta. Però, insomma, attorno ad essa si è creato chiaramente un alone di attenzione molto molto forte. Anche sì, ieri è stato così, l'avete registrato questo tipo di attenzione? Sì, l'abbiamo registrato perché, appunto, avendo fatto l'iniziativa al Prato, quindi al di là delle persone che erano venute lì direttamente perché interessate all'iniziativa, abbiamo notato un po' dei piccoli agglomerati, chi si avvicinava di più, chi un po' meno, però diciamo le persone di passaggio magari si fermavano ad ascoltare di che cosa si parlasse, perché come dicevi tu il TAV comunque è negli ultimi mesi specialmente è diventato un argomento caldo, insomma, della politica italiana e non solo, ma anche perché comunque io credo anche la conformazione dell'iniziativa, il fatto che ci fosse un tecnico, e purtroppo di questi tempi diciamo c'è una grande fiducia all'università, in particolar modo quello che abbiamo riscontrato è che nell'accademia l'iniziativa, che abbia anche un aspetto accademico, funziona, e nonostante non, come ricordava anche Cancelli, l'opposizione a una roba del genere non debba passare semplicemente per un'opposizione tecnica, perché poi le decisioni chiaramente non sono tecniche ma politiche. Però comunque ha riscontrato un certo successo, e poi chiaramente anche la testimonianza dei due compagni valzusini ha, diciamo, coadiuvato il tutto, la buona riuscita dell'iniziativa. Comunque sì, sicuramente la questione TAV ha, insomma, assunto una certa rilevanza, e ci auguriamo anche che la questione rifiuti l'assuma nel Lazio, perché questo non è chiaramente la questione dell'inceneritore, non è un problema di Albano, perché la maggior parte dei rifiuti che verrebbero inceneriti nella discarica, nell'inceneritore di Albano, non provengono chiaramente dal territorio dei Castelli Romani ma da Roma, quindi questo è stato anche un po' un momento, abbiamo anche un po' colto la onda di interesse che circonda il TAV, per non solo perché c'è chiaramente ci vediamo un parallelo politico, anche di modalità di azione, ma anche perché, insomma, crediamo sia assolutamente necessario e urgente cominciare a parlare dell'inceneritore di Albano a Roma e delle altre discariche che si stanno disegnando a Roma, perché chiaramente il grosso di rifiuti sono i romani e le romane a produrli. Eh sì, è proprio così. O peraltro, così, giusto per rispetto a questa questione dei tecnici, c'è da dire, insomma, che poi è vero, oggi i tecnici sembrano ispirare molta fiducia, questo governo peraltro, insomma, ha raccolto propensioni che certamente erano celate anche all'interno del resto dei partiti, ma per questioni politiche di consenso, insomma, gli altri non potevano permettersi. Questo governo, insomma, riesce laddove gli altri, insomma, avevano le mani un po' legate. Però c'è da dire anche che i tecnici, quando sono dalla parte nostra, insomma, non si rifila nessuno, cioè sono tecnici, no, certo, esperti, in grado di dare sentenze accreditate e assolutamente, come dire, accertate solo quando si trovano nel campo, insomma, a noi avverso, quando ce li abbiamo noi e possono essere, diciamo così, anche funzionali ai nostri discorsi, beh, la questione viene capovolta, e anzi ci sono delle volte in cui rischiano anche una certa marginalizzazione nello stesso campo, diciamo, accademico o scientifico in cui si trovano ad operare. Non è la prima volta che succede, insomma. Ma infatti con la lotta al TAV è quello che è successo. Anche Cancelli parlava di diversi episodi di questo genere, ma ricordiamo per esempio la documentazione che è uscita la documentazione del governo, che dopo la pubblicazione del documento sulle 150 ragioni non TAV il governo ha fatto uscire questo documento, in realtà scritto da Virano ma chiaramente firmato dalla Presidenza del Consiglio, che viene diciamo venduto come un documento scientificamente attendibile, ma in realtà non lo è. Cioè, chiunque se lo sfogli, abbia letto un articolo scientifico, si rende conto che non lo è assolutamente. Quindi, e questo però passa per essere una prova valida, quindi è chiaro che non è questione di competenze, come tu ricordavi il governo Monti. Sicuramente i singoli personaggi che costituiscono il governo hanno delle competenze, però è chiaro che le stanno utilizzando in maniera scientifica per reiterare sempre i soliti attacchi, per sferrare i soliti attacchi e per insomma consolidare il potere laddove è. Chiaramente, quindi è così, il tecnico e il tecnicismo insomma sono utili, possono essere utili strumenti di informazione, ma insomma non possiamo aspettarci che siano sufficienti, insomma non sono chiaramente è la lotta poi popolare, quella dal basso organizzata, come ci insegna appunto il TAD, a mettere a valore questi eventuali interventi tecnici e anche a poi fare quadrati intorno a quei tecnici che si assumono le responsabilità di dire poi la verità sostanzialmente, cioè per esempio che quest'opera è inutile o che l'inceneritore di Albano sarebbe altrettanto inutile e dannoso. Certo, va bene. Dunque, allora l'altra volta, quando insomma la mobilitazione poi ha occupato la scena subito dopo lo sgombero della Baita Clarea del 27, poi c'è stata la vicenda di Luca Abba, insomma poi a seguito ci sono state mobilitazioni importanti, anche imponenti a tratti, che si sono allargati a macchia d'olio insomma in tutte le principali città italiane. Qui a Roma in particolare la giornata del 3 marzo insomma si è caratterizzata per un corteo molto molto numeroso, affollato, insomma, che è riuscito peraltro in un'azione importante, quella del blocco della tangenziale, per diverse ore. Questa volta invece l'11 la manifestazione insomma partirà praticamente dallo stesso punto di ritrovo, cioè piazzale Tiburtino. Cosa si sta pensando? Sarà comunque una manifestazione così che si cercherà di costruire anche sulla falsa riga dell'altro appuntamento, oppure si sta pensando a qualcosa di particolare? Guarda, purtroppo io non sono la persona più adatta per insomma darti un quadro della situazione, perché per ragioni personali ho perso l'ultima assemblea. Però ricordo a tutti e tutte che questa sera alle 8 dovrebbe essere al Volturno, cioè l'assemblea romana Nottav, e quindi quella sicuramente sarà una sede in cui si scioglieranno questioni come questa. Perfetto. Allora, benissimo Laura, noi ti ringraziamo. Peraltro insomma ora chiudiamo, ma riapriamo di nuovo questa pagina proprio occupandoci di Albano, visto che i compagni peraltro ci hanno anche contattato telefonicamente, per cui insomma continueremo a stare su questi argomenti. Noi ti ringraziamo e ti salutiamo. Perfetto, grazie a voi, ciao, buon proseguimento. Ciao. Eterno, como estación.